Il punto di Stefano Folli. Se davvero Berlusconi pone come condizione che la Giunta del Senato oggi rinunci a votare e attenda la pronuncia delle corti di Strasburgo e Lussemburgo sui ricorsi, allora non c'è più niente da fare e ci avviamo verso la più assurda e pericolosa crisi di governo. Un errore di cui il Paese potrebbe pagare le conseguenze molto a lungo. Se invece Berlusconi all'ultimo avrà un ripensamento e, pur gridando le sue ragioni, eviterà di riversare la propria rabbia sull'esecutivo in carica che si regge sul voto determinante del centrodestra, allora potremmo dire che il buon senso prevale. Ci sarà certo la decadenza di Berlusconi nel Parlamento, ma avremo un centrodestra che non rinuncia alla sua funzione essenziale, quella di garantire comunque la stabilità e di offrire il proprio contributo al governo dell'Italia in un momento in cui con tanta fatica si cerca di risalire la china sul piano economico. Il bivio è questo e Berlusconi ora deve scegliere.